RadioTube Social Network. Torniamo insieme con la seconda ora del nostro RadioTube, un RadioTube speciale, come sempre questa è la settimana dell'anno in cui ci trasferiamo a Sanremo e in particolare in questo momento ci troviamo sulla terrazza dell'Ariston Roof, cioè proprio del tetto del teatro Ariston. Qui c'è la sala stampa, ormai avete imparato a conoscerla da tutti i nostri racconti, ma in questo momento ci stiamo anche godendo un po' di vista mare e in particolare io mi sto godendo la vista mare con il nostro super super super esperto del Festival di Sanremo, Eddie Anselmi, eccoci. Ciao Marta e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RadioTube, ciao. Allora, diciamo che per questa volta ti abbiamo un po' ceduto al Festival di Sanremo, perché noi ti abbiamo sempre rapito, sono tanti anni che sei il nostro super esperto, però quest'anno, vabbè, ti abbiamo visto per tutte le sere all'altro festival, che era il nuovo dopo festival. Come è stata come esperienza? L'esperto umano, no? Io ero il Google Man di Savino, obiettivamente, però un briciolo di umanità ho dovuto mostrarla, e quindi, insomma, un 99% di score l'ho fatto, il 100% no. Vabbè, meno male, perché altrimenti sembri un computer, dai, qualche volta qualche incertezza ci può essere, tipo su un titolo di una canzone dei Ricchi, che voglio dire. Allora, voglio partire da un argomento piuttosto buffo, del quale, insomma, si sa poco, perché ormai di Sanremo si sa tantissimo, si sa quasi tutto. Tu hai pubblicato questa tua nuova versione del Festival di Sanremo per De Agostini e twitti anche delle cose gustose sul Festival di Sanremo con l'account Chiocciola Sanremo. Quindi l'account Chiocciola Sanremo su Twitter te lo sei accaparrato tu? Sì, diciamo che l'account Chiocciola Sanremo, io fui su Twitter casualmente appena Twitter nacque, era il 2007. E ho detto, io non sapevo neanche come usarlo, come non usarlo, perché prendersi un account con il mio nome, non sono così importante. Allora presi il Chiocciola Sanremo e Chiocciola Sanremo era libero, è stato quiescente per qualche anno perché avrei voluto utilizzarlo per qualcosa di importante. Oggi c'è il libro e Chiocciola Sanremo è diventato l'account ufficiale non di Eddie Anselmi ma del libro Il Festival di Sanremo di Eddie Anselmi. Allora Eddie, questa storia mi ricorda un'altra storia che mi raccontassi tempo fa, che era quella dei domini legati al Festival di Sanremo, dei domini internet. Personalmente credo che sia l'intuizione o il momento di insensatezza che poi in effetti mi ha cambiato la vita. Era la notte tra il 28 e il 29 ottobre del 1998. Avete capito quanto è enciclopedico Eddie Anselmi? I giorni importanti della propria vita ovviamente me li ricordo. Certo. Era quella notte, quindi sono passati oltre 22 anni e mi venne in mente che potevo fare un sito sul Festival di Sanremo che non esisteva. Dice, dove lo mettiamo questo sito sul Festival di Sanremo? Su festivaldisanremo.com e su festivaldisanremo.it. Registrai i domini ed erano liberi. Gli organizzatori del Festival di Sanremo non erano interessati a una comunicazione via internet, a una comunicazione sui domini, quindi per qualche anno mi vennero lasciati. Poi dopo un accordo con il comune di Sanremo fece me restituire loro il festivaldisanremo.it, che non usano poi di fatto mai, e successivamente invece nel 2000 è nato Festival di Sanremo .com, il sito indipendente sul Festival di Sanremo, che è stato il mio primo approccio editoriale al festival, e fino al 2007 è stato, numeri alla mano, credo il più visitato sito in Italia sul festival. C'era solo quello e era primo, secondo e terzo su Google, quindi diciamo non è stata una gran fatica, non c'era un vero e proprio modus operandi, insomma non ragionavo con i CEO, i posizionamenti, gli algoritmi, lavorai in un certo modo e mi trovai lì. Intanto sentiamo, se sentite rumori strani, sono i gabbiani, ci sono davvero i gabbiani perché siamo davvero su una terrazza che guarda il mare di Sanremo qui sopra il teatro Ariston. Eddie, una curiosità che tu hai fatto emergere in questi giorni è il fatto che il Festival di Sanremo non ha un suo logo. Altre manifestazioni come Cannes, come la Mostra di Venezia, hanno un logo, un'immagine grafica che caratterizza la manifestazione. Sanremo no. Sanremo non ha un suo logo, ha un logo che cambia anno dopo anno, che in genere è un logo fatto con i font ufficiali della RAI negli ultimi anni, con un'onda grafica, è più un tema dell'anno. Il comune di Sanremo, che è titolare del marchio, fa un'altra serie di poster o di affissioni murali con tutt'altro tema grafico, riferendosi alla stessa edizione. Quindi chi possiede il Brand Festival di Sanremo e chi ne esercita l'organizzazione su licenza del comune fanno una comunicazione completamente diversa in termini di brand, insomma. E questo è già il primo elemento strano. Quando poi usciva, non so se uscirà ancora, ma credo di sì, la compilation in CD avrà una copertina che sarà un'altra elaborazione grafica del tutto diversa, cioè non esiste una comunicazione integrata che mette insieme manifestazione, attività del comune e uscita discografica, non c'è. Beh, devo dire che questa è una considerazione un po' da appassionati, però per quanto riguarda il marketing è una considerazione interessante. Ad esempio, quest'anno è la prima volta che io vedo il merchandising ufficiale in giro per le strade di Sanremo. Apprezziamo il tentativo, ho visto baracchini di merchandising più ricchi, più accattivanti, più che ti fanno venire più voglia di comprarlo. Sembra una baracchina di tifosi del Cesena o dell'Udinese, per non dire... Perché i colori sono il bianco e il nero? Pensa a questo, i colori sono il bianco e il nero e tutti i manifesti sono blu e azzurri, anche erano un po' indecisi. Da una parte c'erano quelli tifosi del Lecco col blu e azzurro, dall'altra parte i tifosi dell'Udinese, per non dire altre squadre di calcio, che ne so. Mi piace perché tu sei sempre appassionato di squadre anche a metà classifica o in campionati minori. Allora, merchandising effettivamente è una cosa che mancava, perché ci sono un sacco di turisti che magari vorrebbero acquistare un souvenir, almeno quest'anno questa idea l'hanno avuta. Un'altra cosa che sarebbe bellissima, io dico sempre ci vorrebbe a Sanremo, sarebbe un museo. Ci sono sempre tentativi, c'è il museo di Valle Crosia, il vagone della famiglia di Ario Tripodi, che fu il fondatore di una grandissima collezione di memorabilia. I turisti io penso che si fermerebbero a Sanremo anche fuori stagione per fare una passeggiata per i luoghi del festival. Non esiste una targa che ricordi che il festival è stato fondato al Casinò, non esiste una targa che racconti dove si è consumata la tragedia di Luigi Tenco. Nei luoghi del festival sono raccontati oralmente, ma non esiste proprio un percorso che li racconti. Io credo che sia una grandissima opportunità che questa città potrebbe avere. Allora, a proposito di percorso, l'ultima domanda che ti devo fare, per forza, anche se ovviamente non ti puoi sbilanciare, è: dopo la finale di questa sera, per uno o una dei campioni si aprirà un percorso importante? Uno, una o più d'uno o più d'uni, nel perché chissà, gruppi, insomma. Certo. Allora, si aprirà il percorso dell'Eurovision Song Contest, già che l'artista che avrà vinto la sezione campioni potrà avere scelto, le adesioni sono state già raccolte dalla RAI e quasi tutti, devo dire la verità, hanno dato la loro disponibilità di rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest di Rotterdam. Ora, quello che mi auguro io è che, se quasi tutti hanno scelto, vinca uno, una o qualcuno di quelli che hanno scelto, perché mandare all'Eurovision la vincitrice di Sanremo, non il secondo classificato, per quanto abbia fatto bene, sia stato degnissimo rappresentato, abbiamo vinto una volta con un secondo classificato, pensa, Toto Cutugno partecipò a quell'Eurovision dopo la rinuncia dei Pooh, quindi e vinse. Va benissimo, mi piacerebbe portare il vincitore, la canzone vincitrice del festival, perché la canzone vincitrice del festival acquista una forza, un'autorevolezza che la fanno diventare più forte anche davanti al pubblico d'Europa. Sono d'accordo. L'ultima considerazione che ti chiedo a questo proposito, hai notato negli anni sempre più interesse da parte dei cantanti di Sanremo a partecipare all'Eurovision? La prima volta che l'Italia tornò, i cantanti non sapevano quasi che cosa fosse, un'importante casa discografica che sembrava avere il biglietto per Düsseldorf in tasca, all'ultimo minuto scosse la testa e disse no, non ci interessa. E per fortuna la Sugar accettò la sfida, si mise in gioco con Rafael Gualazzi e guadagnò una visibilità internazionale e anche un ottimo secondo posto. Da allora, mano a mano, ogni volta che questa esperienza dell'Eurovision era positiva per le vendite, per le visibilità, molti cantanti hanno detto ma perché no? Perché no? E infatti in questo momento quasi tutti diciamo che vogliono andare all'Eurovision. Mahmood un anno fa, senza l'Eurovision, non so se avrebbe venduto i milioni di copie che ha venduto in Europa. Allora, grazie a Dian Selmi. Io ricordo la sua grande storia, il Festival di Sanremo, anche perché poi si spegneranno le luci, magari ci ripassiamo un po' di aneddoti, un po' di storia, che è anche la storia del paese. La televisione va, i libri restano, quindi... È vero. grazie Eddie. Grazie a Marta e un buon pomeriggio e un buon festival a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di RadioTube. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco. Era inevitabile. L'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate. Vite che aspettano solo di essere raccontate. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Radio Tube Social Network. E ci ritroviamo insieme. Ci siamo trasferiti in un luogo un po' particolare, siamo in Piazza Colombo, che è poi la piazza accanto al Teatro Ariston. Se sentite della musica se avete visto le serate del festival, sapete quella del palco che per la prima volta è stata allestito in Piazza Colombo per tenere compagnia alle tante persone che magari vengono a visitare Sanremo, ma in realtà, a parte il festival, poco avevano. Invece quest'anno si suona, e si suona molto, e probabilmente lo sentite in sottofondo. In zona Piazza Colombo c'è l'antro in cui vengono alizzati i social. E allora, come l'anno scorso, voglio fare il punto della situazione con il responsabile delle piattaforme dei social e della data analysis di Team, Mariano Tredicini. Ciao Mariano, bentornato. Ciao, buongiorno. Allora, qui cosa succede? Io vedo numeri, immagini dei social. Ci racconti cosa fate? Sì, noi analizziamo, siamo qui con la Team Data Room, analizziamo tutte le conversazioni, i dati che girano sul web durante il Festival di Sanremo, quindi quelli dei social network, ma non solo, anche quelli della blogosfera, quelli delle testate giornalistiche online. Analizziamo queste informazioni cercando di estrarre degli insight utili, li distribuiamo all'ufficio stampa, alla sala stampa di Sanremo, e proviamo a raccontarli anche ai cantanti. Quindi incontriamo gli artisti e gli raccontiamo un po' le loro performance, cosa hanno scatenato. Come fate a rastrellare questi dati utili? Allora, abbiamo un team di data scientist qui a Sanremo, altre persone a Roma, e utilizziamo dei software che ci permettono di leggere i dati pubblici sui social network e seguire un po' gli hashtag che vengono utilizzati all'interno di questa conversazione. L'hashtag principale è Sanremo 2020, ma si generano in continuazione numerosi hashtag intorno ai cantanti, intorno alle canzoni, intorno a ciò che avviene sul palco di Sanremo. Ci sono anche degli hashtag che hanno fatto litigare degli artisti. Ormai l'hashtag è diventato un mezzo di espressione. Io personalmente, quando vedo che una cosa è vecchia e non mi piace, io scrivo hashtag Sanremo 1972, perché magari non serve, però serve a far capire. Allora, spieghiamo una volta per tutte che l'hashtag serve anche a quelli che non vogliono seguire un determinato argomento, per non lamentarsi e non seguirlo? Sì, l'hashtag, allora, nasce come quel cancelletto che era sotto il tasto 9, che nessuno ha mai utilizzato per anni. Poi all'improvviso, mettendolo davanti a una parola, si è creata questa etichetta, che è appunto l'hashtag, ed è tornato il simbolo più conosciuto al mondo. Quindi si crea appunto un'etichetta, un tasto, un testo, un link cliccabile, dove si finisce all'interno di un contenitore che contiene appunto tutta la conversazione. Se qualcuno non vuole seguire quell'hashtag, è liberissimo di non cliccarci su, però a volte ci si clicca proprio per creare poi nuovi hashtag, per leggere tutto, per commentare. Poi la rete dà anche questa libertà di espressione totale, dove le persone si esprimono, commentano, anche a volte con commenti un po' pungenti sui look, su ciò che c'è stato. Per esempio, il primo picco di conversazione della prima serata di Sanremo è stato su Achille Lauro. Inevitabile, dai, la sorpresa. Inevitabile. La seconda serata, indovina? La seconda serata... No, non, ormai le sto mischiando tutte. Cosa può essere stato? Elettra Lamborghini. Ah, beh, certo. Mentre la... Sì, poi andando avanti così con le serate, sono stati diversi picchi. Diciamo che la terza serata è stata quella un po' più equilibrata, perché comunque le performance sono state diverse, eterogenee, quindi sono attivate parecchie community. Non ci sono stati picchi incredibilmente grandi di conversazione su altri. Ci sono delle differenze sostanziali di temi tra i vari social network? I social network che noi monitoriamo, chiaramente più utilizzati anche dagli artisti, sono Facebook e Instagram in modo particolare. Stiamo notando un comportamento non sempre corretto da parte degli artisti, cioè quello lì di utilizzare lo stesso piano editoriale per tutti i social network. Ah, non si fa. Allora, bisogna utilizzare diversamente Facebook, Instagram, spiegaci come. Potrebbe essere utile differenziare, perché per esempio su Facebook abbiamo circa 35 milioni di italiani, è una demografica ben distribuita. Su Instagram è cresciuto tantissimo, quindi sta circa 25 milioni di italiani, anche lì l'età media era estremamente giovane, ora si è allargata. Poi ci sono nuovi social network che non tutti utilizzano e che qualcuno probabilmente utilizzerà a breve, come TikTok, dove si è scatenato anche lì un bel po' di conversazione con l'hashtag Sanremo 2020. Quindi conoscere le piattaforme, conoscere la demografica, cioè le persone che mi seguono, che età hanno, quali sono i gusti, qual è il modo di comunicare, può dare un vantaggio all'artista, creare contenuti giusti per quella piattaforma. Ecco, una volta che avete raccolto questi dati, cosa potete far venire fuori? Che termometro danno all'artista, alla serata, alla conduzione? Allora, possono dare diversi insight, perché uno è sicuramente quanto sono piaciuto alle persone, quindi quanto hanno parlato di me, come hanno parlato di me. L'altro termometro è quanto sono interessati a me, perché anche le ricerche di Wikipedia, per esempio, sono un segnale importante. Se pensi che Diodato, dopo la canzone, è stato ricercato tante volte, a tal punto che le ricerche sono incrementate del più 2000%. Quindi in tanti si sono chiesti: fammi capire chi è, fammi leggere un po' della sua bio, fammi capire che canzone aveva. Stessa cosa per i Pinguini Tattici Nucleari e questi nuovi, diciamo, gruppi, questi nuovi artisti che si sono affacciati qui a Sanremo. Beh, questa cosa è molto utile. Hai citato TikTok, ti posso citare anche meno nuove, ma comunque più giovani, le storie di Instagram. Lì si può fare appunto un'analisi, sono talmente impermanenti e volatili, come si fanno ad analizzare? Sì, noi analizziamo a volte anche manualmente questi contenuti, quindi è un lavorone. Tu sappiamo che sei una molto presente su social network, sappiamo che non hai ancora aperto TikTok. Non mi sento troppo vecchia, Mariano? Ma no, assolutamente non lo sei, assolutamente sei fortissima sui contenuti, noi ti seguiamo e probabilmente sono piattaforme dove imparare a starci, perché a volte sono terreni talmente diciamo mobili che bisogna capire bene che tipo di approccio avere. È chiaro che TikTok oggi è una piattaforma che autorizza un po' tutti a spogliarsi dalla seriosità, come dire, no? E giocare un po' su quella piattaforma, però se vuoi portare dei contenuti eccessivamente seri o comunque importanti, devi trovare il modo per metterli, almeno per ora, perché appena i genitori vorranno controllare questi ragazzini e si iscriveranno su quella piattaforma, probabilmente ne nascerà un altro. Ma giustamente, non abbiamo citato Twitter. Su Twitter cosa succede? L'informazione, i commenti? Twitter rimane il canale principale anche qui a Sanremo, perché i giornalisti sono presenti lì, perché la conversazione del second screen rimane comunque una piattaforma eccezionale per il second screen, per la reattività, per il commento in tempo reale su quello che sta accadendo. Quindi rimane comunque la principale fonte di conversazione intorno a Sanremo durante la kermesse, quindi dalle 20:30 alle 2 di notte. Abbiamo avuto la prima serata oltre 600.000 tweet durante il Sanremo, la seconda serata c'è stata un calo, anche la terza, ma ci troviamo fortemente in linea con l'anno scorso. Solitamente poi c'è una ripresa nel sabato finale. Eh beh, certo, per la finale siamo lì tutti davanti a twittare, magari anche criticare con ironia, quindi anche lì magari è difficile capire il sentiment con un'analisi superficiale, perché magari il tweet ironico cronico può sembrare negativo, ma non lo è. Sì, solitamente si fa anche un'analisi di opinion mining, si chiama, cioè l'interpretazione proprio dell'opinione espressa, no? Quindi, per esempio, se qualcuno twitterà dopo questa intervista, certo che Mariano Tredicini è un figo, però la Team Data Room non mi piace tanto, allora sono due opinioni espresse, io dovrò muovermi di conseguenza. Ah, vedi che questo è veramente interessante. Sanremo rispetto ad altri eventi, che portata ha e quanto può servire anche come esperienza, perché la scienza della data analysis è anche una scienza che si autoarricchisce, perché attraverso i dati che si raccolgono si riesce a creare una base per nuove esperienze e per arricchire nuove analisi. Quanto conta Sanremo per voi? Sanremo è un bel test, e non ti nascondo che noi facciamo anche delle prove tecniche qui a Sanremo, nel senso che è tutto molto concentrato all'interno di una settimana. Altri eventi di questo tipo e di questa portata non ci sono, nel senso che seguiamo lo sport, siamo sponsor del calcio italiano, però non c'è mai una concentrazione di questo tipo. Facciamo esperimenti anche per migliorare le nostre performance di analisi. Noi abbiamo fatto anche 42 puntate di Matrix con Nicola Porro su Canale 5, dove abbiamo analizzato il dato dell'argomento di attualità trattato in trasmissione. Anche quello ci ha messo a dura prova, perché analizzare in pochissimo tempo è qualcosa di abbastanza complesso. Qui a Sanremo lo facciamo per 7 giorni. Poi dopo Sanremo, chiaramente le nostre macchine, i nostri data scientist, dopo un paio di giorni di riposo, chiaramente mettiamo giù tutto e cerchiamo di capire bene quali sono gli approcci che sono andati bene, quali no. Ultima domanda: so che molti sono curiosi perché accanto all'hashtag Sanremo 2020 oppure o 2020, scusate, come diceva Deus, o Sanremo 70, c'è il vostro brandino piccolino di team. Che cosa succede in questi casi? Quando un'azienda decide di brandizzare un hashtag, come lo sceglie e come si fa? Perché gli utenti su Twitter, ad esempio, se lo trovano già brandizzato. Sì, ho letto qualche commento su questo, e praticamente questa è un'operazione pubblicitaria, è una forma di sponsorizzazione che offre Twitter, si chiama hash flag, cioè quella bandierina che si mette vicino all'hashtag. Quello è una bandierina del nostro logo con le cuffie, che richiama un po' il logo di Team Music, che è la nostra piattaforma di streaming, ed è un'operazione semplicemente un'operazione pubblicitaria. Quindi qualcuno, sì, ho letto che non era d'accordo con questo, però questo ci permette comunque di raggiungere come esposizione del brand tutta la conversazione su Sanremo, ed è un ritorno non da poco. Grazie Mariano, responsabile delle piattaforme dei social e della data analysis, l'ho detto bene? Perfetto. L'anno dopo l'altro imparo. Grazie Mariano Tredicini, a presto. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao, ti aspetto su TikTok. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Beh, un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22:30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Un ragazzino che riceve una lezione di umiltà da un giovane arbitro. Mi ha colpito di una cosa lo sguardo, perché lui mi ha guardato dritto negli occhi, l'avevo colpito. Il tizio che invidia l'amico diventato un cantante di successo, una signora che riscopre il sesso a 86 anni. La signora, per motivi anagrafici, avrebbe potuto essere mia madre. Storie di invidia, di gola, superbia, lussuria, ma anche di eccessi di velocità, di cattivo gusto e di oblio. Storie di vita che parlano di vecchi e nuovi vizi capitali. Questo è ciò che raccontiamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra di Matteo Caccia. Da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21:30 su Radio 24. Perché le linee d'ombra sono il confine tra ciò che sappiamo e non sappiamo del mondo, ma anche di noi stessi. Salve a tutti, da Massimo De Donato vi aspetto ogni sabato alle 22 a Strade e Motori, lo spazio di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Cercheremo di capire come sta cambiando questo mondo, quali automobili vedremo sulle strade nei prossimi mesi, qual è il futuro delle motorizzazioni tradizionali e come l'auto elettrica cambierà le abitudini degli italiani. E siccome anche l'occhio vuole la sua parte, sul sito di Radio 24, nella sezione auto, video, clip, i test su strada, le immagini e le schede dei nuovi veicoli provati. Strade e Motori, ogni sabato alle 22 su Radio 24. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Radio Tube Social Network. E ci troviamo per l'ultima mezz'ora del nostro RadioTube speciale Sanremo. Incontriamo altri due dei big di questo festival, altri due tra i più amati. Intanto Tosca, che ha vinto la gara dei duetti insieme a Silvia Perez Cruz proponendo Piazza Grande di Lucio Dalla. Un Sanremo l'ha già vinto insieme a Ron con il pezzo Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ora ci riprova da sola con Ho amato tutto. Dentro la finestra il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se potesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto di ogni parola stanca, il significato. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato. Ed è una musica che va in un istante a primavera che ritorna. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Questo Sanremo, il tuo nome per noi è stata una sorpresa, perché noi l'abbiamo vissuta in maniera un po' rocambolesca, questo annuncio dei big, 22, poi 24, ma tu quando hai avuto la certezza, so che hai pensato addirittura a uno scherzo, davvero? Beh, insomma, immaginati, 3 gennaio, 11 di sera, ero un po' febbricitante, ero col mio compagno e sentivo questo telefonino che continuava a vibrare, poi vedevo un numero che non riconoscevo, allora ho risposto e mi hanno detto, ciao, sono Amadeus. E io ho detto, Amadeus? Sì, no, senti, volevo dirti che non siete i big quest'anno, non so se lo sai, non sono 22 ma 24. E, ho detto, e 23 sei te. E che gli ho detto, Fiore, Questi scherzi, ti prego, non mi sento neanche bene, dai, lascia perdere, non è un grande scherzo. E lui mi ha detto, oddio, non ho pensato che tu sei amica di Fiori, adesso come faccio a farti capire che è vero? E qual è stata la prova? La cosa è stata che ha cominciato ad andare nello specifico e allora ho capito che non era uno scherzo, che mi sono seduta sul letto e ho detto, ma allora non mi stai prendendo in giro, per niente. E quindi che mi dici? E che ti dico? Mi hai messo nei guai, ora devo correre, gli ho detto. A proposito delle polemiche sulle donne, visto che se ne è parlato sì. In tutte le salse, io penso che tutte noi, anche noi giornaliste, tutte le donne che fanno un loro pezzettino dentro questo sì. Gran gioco di Sanremo, quest'anno dovranno metterci del loro. Tu cosa metterai di tuo in questo spazio che serve anche alle donne per far capire quanto valiamo? Io ci metto tutto l'impegno che sto avendo già da tanti anni, intanto con la formazione ad Officina Pasolini, che è il centro culturale, io dirigo la parte della canzone, e ci sono tantissime donne con cui io collaboro, non solo delle giovani studentesse, future artiste, ma anche dei raduni che facciamo di cantautrici, di cantanti splendide, meravigliose. Questo è quello che io sto portando su questo palco. L'importanza di essere un artista, la non importanza di avere tette e culi, quello se c'è un bene, è un meglio, ma non deve essere fondamentale. L'importanza di avere una testa e non solo una voce. E bisogna assolutamente ridarci una forza insieme, perché non possiamo, per esempio, tutte queste robe di polemiche di Junior Kelly, che tra l'altro ieri ho visto e ho detto io ti voglio parlare, perché mi piace parlare con lui e capire perché è importante, non c'è censura che tenga, la censura non serve a niente, e se noi non contrapponiamo un modello femminile reale, cioè le donne comuni, donne belle, intelligenti, sono la realtà. E contrapponiamo invece in video un modello virtuale, cioè qualche cosa che è un oggetto e che è un po' lontano dalla realtà. Se noi non riusciamo a dire finalmente ci siamo, esistiamo e permettiamo ancora ad un indotto civile di far finta che non esistiamo, non possiamo parlare di altre cose. Non si parla degli effetti, si deve parlare delle cause. Quella è la causa, che c'è una parte femminile completamente ignorata, misconosciuta e oscurata. E questa è una battaglia che dobbiamo fare. Sono d'accordo al 152%. Grazie, sì, davvero grazie a te. Grazie a te. Un altro dei big di Sanremo, un altro dei favoriti, Piero Pelù. Per lui è il primo festival, con Gigante celebra il suo essere nonno. Forte, salta fuori da quel buio, crescerai aprendo porte tutti i giorni, stare pronti, tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi, tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei il re di tutto e di niente. Gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare il mondo. Fatti il tuo castello volare. pianti. Allora, io sono molto contenta di avere un giovane debuttante all'Ariston di Sanremo. Mi strappi a per culo? No, sto dicendo la verità, Piero Pelù. Piero, ma com'è questa storia? Cioè, qua a Sanremo? Sono 40 anni di musica che festeggio quest'anno e quindi li voglio festeggiare in tutte le forme possibili e immaginabili. Quindi ora c'è Sanremo e mi sono ficcato in questo manicomio che è il Festival della Canzone Italiana. 40 anni fa forse all'Ariston, cioè se te l'avessero detto all'epoca? No, allora tu devi considerare che alla fine degli anni 70 il Festival di Sanremo era una chiavica, diciamolo chiaro e tondo. Si cantava in playback, immersi in mezzo a vasi di fiori improbabili, con presentatori fuori campo, era una roba oscena. Poi si è ripreso, diciamo che dal 2000 in poi si è ripreso molto bene, dai. E infatti ci hanno suonato moltissimi miei amici di band, solisti, insomma, e quindi ho detto dai, perché no. Tu hai portato un pezzo un po' particolare, anche con un testo un po' particolare, mi racconti questa scelta? Sì, Gigante è una canzone che parla di nascita e di rinascita. Quindi in parte dedicata ai miei nipotini e in parte dedicata ai ragazzi delle carceri minorili, in particolare a quelli del carcere di Nisida a Napoli, con i quali ho fatto un bellissimo programma un anno e mezzo fa, in cui noi ci vedevamo per 5 giorni e alla fine di quei 5 giorni l'obiettivo era aver scritto una canzone insieme. È stata un'impresa molto importante dal punto di vista umano, perché tu considera che i primi 2 giorni, mentre io parlavo con loro cercando di trovare un dialogo, e mi sembrava di essere con le mie figlie in realtà, loro si guardavano le punte delle scarpe, si grattavano le unghie, si guardavano l'ombelico, si grattavano dietro l'orecchio, ma non mi cacavano proprio. Poi piano piano si comincia a parlare di ragazze, di feste, di macchine, di calcio, di musica, e quindi neomelodico, che non è il mio forte, però anche reggaeton. E allora io avevo pronti lì gli strumenti, ho fatto partire un bel groove di reggaeton e su quello lì ho cominciato a inserire sopra le parole che loro dicevano. Io però ti devo chiedere qualcosa di questa cosa dei nipotini, perché come fa un rocker a essere nonno e com'è un rocker nonno? Ma io sono un nonno molto nomade, perché sono sempre in giro per il mondo, quindi li vedo un po' poco. Diciamo che cerco di riuscire a vederli almeno una volta al mese, ecco. Che non è tanto, però insomma è quelle volte che ci vediamo e ci buttiamo via, ecco. Questo sì. Non li vizio però, E l'orchestra che impressione ti ha fatto? È la prima volta che suono con un'orchestra. Cioè in casa tua si respira aria orchestrale, diciamo. Sì, ora si respira anche aria orchestrale da almeno 4 anni a questa parte. E naturalmente con Gianna, mia moglie, avevamo pensato anche che potesse essere lei a dirigere l'orchestra. Poi, confrontandoci un po' anche con l'ufficio stampa, abbiamo detto: ma non è che rischiamo l'effetto Albano Romina? Con tutto il rispetto, Dio. E per l'effetto, e quindi abbiamo deciso di rimanere nella formazione del disco, cioè io e Chiara Valli, Luca, che Gigante è peraltro, 2,10 metri, e con lui ho prodotto l'album, quindi era giusto. Poi lui ha già fatto altri Sanremo, eccetera. Grazie a voi. Ciao. A prestissimo. E noi ci ritroviamo tra poco con l'ultimo blocco di RadioTube e un ospite davvero speciale. Quale sarà la professione più richiesta in futuro? Quali nuovi lavori 4.0 esistono già? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Sono Anna Marino e con I Lavori di Domani vi spiego in concreto cosa fanno e quanto guadagnano blockchain designer, strategist, data scientist, ma anche l'enologo o il magazziniere 4.0, tutte le figure più richieste nei prossimi 5 anni, ma che nell'80% dei casi le imprese non trovano. Insieme capiremo il lavoro che c'è e i lavori di domani. In onda ogni domenica dopo il GR delle 8 e i dettagli nella versione podcast su radio24.it. RadioTube Social Network. Insieme per l'ultimo blocco, ma il più bello di questo speciale di Sanremo. Io sono un po' emozionata perché ho accanto a me, davvero, adesso tutti lo chiamano maestro, però io posso dire che negli anni in cui l'ho incrociato tra festival della musica e del cinema è sempre stato il più gentile, il più galante. Quando un giornalista diventa famoso spesso è presuntuoso, deve passare per primo. No, qua stiamo parlando proprio di un'altra classe. Oddio, sono emozionata, per questo mi manca la voce. Benvenuto a RadioTube al grandissimo Vincenzo Mollica. Grazie Vincenzo. Buongiorno a te. Allora, intanto voglio chiederti come ti senti, perché ieri sera è stata una serata un po' particolare. Il giornalista di solito è abituato a presentare gli altri, celebrare o denigrare gli altri, o criticare o apprezzare o analizzare gli altri. Stavolta il protagonista eri tu, com'è stata? È una cosa molto emozionante, perché era totalmente inattesa, non sapevo nulla di quello che stavano tramando alle mie spalle Rosario e tutti gli altri, ed è stato così emozionante. Sono andato giù con mia moglie, con una scusa mi hanno tirato giù dicendomi che Fiorello poi mi doveva parlare. Io in platea non c'ero mai stato, in 40 anni di festival, 39 anni di festival, non mi sono mai seduto in platea, ho sempre seguito i festival dietro le quinte. Anche quinte diverse, diciamo, e allora ho visto un pezzettino di spettacolo, ho detto ma però poi infine è arrivato Rosario e ho capito che c'era, stava succedendo qualcosa di particolare, e poi le testimonianze di Benigni, di Vasco, di Stefania, di Sandrelli, insomma sono stato un momento che mi ha molto commosso, davvero commosso. E poi devo aggiungere a questa commozione quella in sala stampa, dove c'erano tanti colleghi con cui ho lavorato e che mi hanno regalato un abbraccio pieno d'affetto, insomma, ecco, quindi sono stato molto contento ieri sera. Ho fatto fatica a dormire stanotte, ma sono stato contento. Che meraviglia. E poi devo dire anche che la sera, arrivando all'Ariston, io le vedo, le sento le persone che si assiepano sotto il balconcino. Magari i primi anni si assiepavano per vedere gli artisti che tu portavi sul balconcino, ma adesso anche per te. No, beh, quello no, perché sanno che c'è questo appuntamento che ormai dura da 24 anni e quindi che lì sotto quel balconcino arriveranno poi a un certo punto i personaggi, perché quel balconcino nacque perché non potevo far vedere la scenografia prima dello spettacolo. Allora, per necessità, con un mio collega che si chiamava Roberto Cannavici, un producer, cercammo nell'Ariston e abbiamo pensato a quel balconcino che era esattamente sopra la porta d'ingresso, come se fosse un ponte condominiale, dal condominio si passava direttamente al palcoscenico, un balconcino ideale di tutti gli italiani che potevano avere un accesso un po' particolare. E poi quel balconcino è cresciuto, sono venuti tutti i conduttori, da Mike Bongiorno a Pippo Baudo, Pavarotti, Lucio Dalla, potrei continuare un elenco infinito, Will Smith, veramente tanti. E poi alla fine però era un modo carino, garbato, per poter raccontare cosa stava succedendo, commentare i fatti e raccontare quello che sarebbe successo nella serata subito dopo. Vincenzo, quanti festival? 39. Urca, allora intanto non è cifra tonda e quindi bisognerebbe farne almeno un altro per fare la cifra tonda. Come inviato del TG1 finisco, vado in pensione il 29 di febbraio e farò 40 anni di TG1 il 25. Accidenti, accidenti, sì. Certo che questo 39... Questo 39 a me lascia un po'... No. Lasciamo che lasci qualcosa così. Ma al 39esimo festival c'è ancora qualcosa che ti ha stupito, che hai imparato, oppure era diventata routine? No, i festival non sono mai una routine, perché c'è sempre qualcosa di sorprendente dentro di sé. Hanno sempre qualcosa da imparare, la curiosità che muove tutta la nostra professione ci fa sempre scoprire qualcosa di nuovo. Devo dire che quest'anno il sentimento più bello che ho sentito è stato quello di amicizia. Ho trovato che Amadeus e Fiorello abbiano dato un bellissimo sentimento, regalato, oltre alle canzoni, oltre allo spettacolo, eccetera, un collante importante, uno spirito importante, che è quello amicale, che ci deve essere tra gli artisti, un senso di solidarietà. Ecco, quella è la cosa più bella che possa essere capitata quest'anno, che l'amicizia può regalare tante sorprese. Ho parlato anche con Celentano al telefono e anche lui era, gli piaceva proprio questo festival per questo motivo, per il motivo che insomma l'amicizia, che è un valore importantissimo, che così siamo abituati ormai ad essere a strapazzarla, questa amicizia. Siamo abituati a strapazzare l'umiltà, siamo abituati a strapazzare tutto quello che ci capita, perché è un tempo barbarico, diciamo. Ecco, invece qui veniva fuori in maniera naturale, come una bella sorgente d'acqua pura. Ti chiedo un'ultima cosa, Vincenzo. I giornalisti non vanno mai in pensione, devono rimanere abbarbicati alla poltrona da inviato, alla sedia in redazione, salvo che abbiano mariti o mogli che li riconducano alla ragione e gli dicano spesso goditi un po' la vita. Adesso tu cosa hai intenzione di fare per prima cosa? Ma per prima cosa, il primo di 29 di febbraio, la prima cosa è faccio l'ultima puntata di Dore Chuck Gulp, ecco, che chiude così i battenti, chiude i battenti l'ultima puntata. Dopodiché il primo marzo comincio la mia passione. Io non lo sai, non ho mai messo davanti, non ho mai calcolato, fatto strategie su quello che mi sarebbe accaduto nel futuro. L'ho atteso e l'ho abbracciato sempre con quello che mi ha portato, nel bene e nel male, e così farò anche questa volta. Io credo che, hai detto bene, nessuno di noi smette di fare il cronista, il giornalista, quando ha voglia di farlo e ci mette passione. Ecco, io posso dire che continuerò a farlo in maniera diversa, con lo stesso sentimento, che è fatto di fatica, di passione, di curiosità e di grande amore per questo mestiere che, insomma, mi ha regalato tantissime gioie. Allora noi aspettiamo tutte le forme in cui Vincenzo Mollica vorrà raccontarci qualcosa, perché veramente l'affetto che proviamo per lui, io non riesco ad esprimerlo, è come per un parente, come per un, non lo so, veramente un monumento. Io posso dire una cosa da radioascoltatore, che Marta Cagnola è bravissima, perché la seguivo, io la conosco adesso in questo momento per la prima volta, ed è una veramente strepitosa collega di giornalismo, brava, di spettacolo, e seguo le sue trasmissioni radiofoniche, in particolare quelle in cui racconta le storie delle canzoni, mi piacciono moltissimo. Io ho la lacrimuccia, chiudo qui questa puntata di RadioTube sul serio. Devo solo fare un ringraziamento ad Alessandro Schirano, che mi ha dato una mano da Milano a confezionare tutto, e noi ci ritroviamo sabato prossimo. Grazie.